piccola questa di Pennacchia, calma. Sono drogato. Peggio degli anni, per carità. Sono stato a casa tua, perché non sei sceso? Brutto porco drogato. Vuoi che rimango di nuovo stanotte a romperti il culo? Coglione! E stanotte te lo faccio ti suono la porta, hai capito? Te la butto giù, brutto coglione, froscio drogato. Io sono froscio, tua madre è una bagassa, hai capito? Tua madre è una bagassa e me lo ti coglioni! Me lo ti coglioni! Mi diverto a farti scogliare il telefono tuo, brutto porco. Vediamo se ne schiatta quel bagazzone tua madre. Punto che ad auto ne hanno bruciato la macchina. Eh? Saputo dai. Beh, ha risorto tua madre. Stanotte, se tua madre non ti toglie il baracchino, io ti piombo di telefonate a casa tua, hai capito? Brutto froscio drogato. Froscio drogato! Dai, perché stiamo adesso hai risposto quella bagazzone tua madre al telefono, eh? Vuoi che te lo faccio scusare tutta la notte, telefono? Ah? Froscionato. Ma non ti dice nulla questo numero, 21, sì. Fino a che non ti cambi il numero, ti romperò coglione, notte e giorno, tua madre schiatta e tu crepi, capito? Brutto coglione! Vieni di nuovo sotto casa tua, voglio vedere se scendi. Ok, canale, già sto qua. Piano. Me li hanno ripiegati perché adesso a qualche altro. Che cosa ti piace? Il bagassone in tua mano. Ma hai visto che ad auto gli hanno tolto il bagaglio perché faceva lo stronzo in frequenza? Eh? E gli hanno bruciato anche la macchina. Sei più bagaglio, perché ti piombo di telefonare a casa tua.